Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati alla nostra rassegna stampa dei settimanali, la stampa periodica in edicola in questi giorni. La prima cosa di cui vi voglio parlare oggi riguarda la ricerca del nome, non il nome per le persone ma il nome delle cose, perché c'è una storia molto interessante raccontata da Business Week questa settimana ed è come la Microsoft ha trovato il nome Bing per il suo nuovo motore di ricerca. Chi usa abitualmente il computer, i motori di ricerca, sa di cosa sto parlando. È stato dato questo nome Bing, che sembra un nome assolutamente casuale, in realtà c'è dietro una ricerca molto molto approfondita, perché infatti, come spiega Business Week, ci sono voluti 6 mesi e dozzine di esperti per tirar fuori questo nome. Il brand naming, cioè la ricerca proprio del nome di un marchio, è un affare maledettamente serio, spiega Business Week, in un'epoca in cui i beni devono avere una capacità di attrazione a livello mondiale e sempre in un'epoca in cui una scelta sfortunata può trasformare un prodotto promettente in un fiasco. Quindi, come hanno fatto? Hanno preso un gruppo di 8 persone che hanno cominciato a eliminare e a puntare su una serie di caratteristiche. Le caratteristiche che gli erano state assegnate erano velocità e importanza, e alla fine, dopo un 6 settimane di lavoro, hanno selezionato circa 2000 parole. Da queste 2000 parole poi si sono affidati a una serie di legali e di esperti in diritto d'autore per evitare appunto marchi già depositati. Hanno fatto delle ricerche ulteriori, ovviamente sono stati coinvolti dei linguisti, hanno ridotto le 2000 a 600. Da queste 600 sono arrivati a 50 e alla fine a Bing. Un po' ironicamente Bort Helm, che firma questo pezzo su Business Week, dice: in realtà poi Bing è un acronimo, ma non è Google, suona in inglese, che è poi il principale concorrente a cui Microsoft punta. Però, come vedete, una ricerca molto molto accurata per trovare il nome di qualcosa che poi deve restare e deve essere comprensibile a livello mondiale. In questa settimana si nota che molti settimanali, molti periodici parlano di scuola, non solo i settimanali italiani, tra l'altro, perché ad esempio i francesi su Le Nouvel Observateur si occupano molto diffusamente di un problema della scuola francese, ma viene da dire non solo della scuola francese, anzi, cioè i casi di violenza, di intemperanza, atti vandalici e quant'altro nelle scuole francesi. Il problema è molto sentito ed è stato anche un tema nella campagna elettorale appena conclusa in Francia, ma si segnala tra l'altro su questa controinchiesta, così la chiama Nouvel Observateur, sulla violenza a scuola, che appunto la violenza a scuola esiste. Parliamo sempre della Francia: nel 2007-2008 si sono contati 49.500 cosiddetti incidenti di natura molto varia, su un totale di 4,5 milioni di studenti. Tra l'altro, di questi incidenti cosiddetti, è importante segnalare che solo comunque l'1,1% comprendeva il porto di armi da taglio, di armi bianche cosiddette. In 49 casi si trattava addirittura di armi da fuoco. Più in modo rassicurante, Nouvel Observateur ci informa che si nota un aumento della violenza da parte dei minori, ma però le aggressioni vere e proprie nei confronti degli insegnanti sono da considerare ancora eccezionali. Abbiamo avuto anche dei casi recenti in Italia appunto di questo tipo di violenza all'interno delle mura scolastiche. C'è poi un commento molto feroce da parte di Jacques Jouyard, che firma una rubrica tutte le settimane su Nouvel Observateur, il quale dice che bisognerebbe pensare in modo un po' più diretto. Dice: guardiamo le cose come stanno, il gigantismo dell'istituzione scolastica, il prolungamento senza fine della scolarità, al di là, lontani dall'essere un segnale di buona salute, sembrano piuttosto avere la caratteristica dei dinosauri dell'era secondaria, cioè essere destinati a una estinzione progressiva. Il ragionamento di Gilliard è sostanzialmente: si ha questo parcheggio un po' forzato delle classi dei più giovani nell'area della formazione, un parcheggio che viene considerato poi poco produttivo, poco promettente, e questo è uno dei motivi con cui Julliard spiega appunto questa crisi scolastica. Ma la vicenda delle difficoltà a scuola in realtà viene poi ripresa anche da un servizio che stava sul magazine del Corriere della Sera giovedì. Nelle classi va di moda giocare ad Al-Qaeda, ostaggi incappucciati, armi puntate, su YouTube girano filmati su falsi sequestri di terroristi islamici fatti da studenti con il telefonino. C'è chi dice è solo goliardia, ma per altri è un'incitazione alla violenza. Allora, di cosa si tratta? Benedetta Argentieri parte da questo fenomeno di fare dei filmati che fanno un po' la parodia, come dire, del terrorismo, quindi con finti ostaggi, una sorta di messa in scena di finti ostaggi, filmati che poi naturalmente, e come potrebbe essere se no, finiscono su YouTube piuttosto che sugli altri spazi di internet che consentono una popolarità, una loro diffusione. È da capire se si tratta di ragazzate o di fenomeni preoccupanti. Qui gli esperti che la collega Argentieri ha sentito sembrano un po' divisi, perché ad esempio Luca Bernardo, primario di pediatria al Fate Bene Fratelli di Milano, che tra l'altro dirige il primo ambulatorio in Italia per le vittime del bullismo, dice questa non è una ragazzata, non deve passare come tale, questi video sono una mancanza di rispetto, una mancanza di rispetto per le religioni ad esempio, ma anche per il dolore di chi ha perso familiari in questo modo, e soprattutto sono incitazione alla violenza. Dice li mettono su internet perché è un palcoscenico, e che gusto c'è a fare una cosa del genere se poi rimane tra le mura della classe. Più prudente il giudizio di Giuseppe Colosio, che è nuovo direttore scolastico in Lombardia. Dice in realtà la scuola è sempre in prima linea, è un luogo di aggregazione per eccellenza per ragazzi in età adolescenziale, quindi dice Colosio non si dichiara stupito, d'accordo sicuramente sui controlli, ma spiega anche che sono gli adulti a dover essere dei punti di riferimento, e a cominciare naturalmente proprio dagli insegnanti. Quindi un fenomeno, se vogliamo, meno preoccupante di quello che ci segnalano dalla Francia, con atti di violenza e di bullismo e anche risposte inadeguate alle autorità, perché in altra parte il Nouvel Observateur riferisce anche di un bambino di 8 anni fermato dalla polizia, e due altri bambini di 6-10 anni pure fermati dalla polizia, accusati di un furto di bicicletta. Quindi vicende che hanno più a che fare con la cronaca nera che non con la scuola. Il reportage di magazine italiano invece sembra più mettere l'accento su una questione che, grazie al cielo, appare ancora goliardica. E cambiamo completamente argomento, tornando un po' fuori d'Italia. Business Week ha fatto questa settimana una cosa abbastanza divertente, ed è quante delusioni abbiamo avuto dalla tecnologia negli ultimi 10 anni. Beh, parecchie, nel senso che rispetto a quello che pensavamo sarebbe successo in 10 anni, quando stavamo nel 1998, diverse cose, ohimè, non si sono avverate. Però è interessante vedere la selezione che ne ha fatto Business Week. Ad esempio dice la clonazione. La clonazione nel 1998 aveva delle speranze molto forti, perché c'era stata la clonazione, lo ricorderete, della pecora Dolly, annunciata nel 97, e sembrava che l'utilizzo della clonazione per curare appunto gli esseri umani fosse un obiettivo assolutamente plausibile. Che cosa è successo? È successo che la combinazione di preoccupazioni etiche e di difficoltà tecniche hanno rallentato il percorso della clonazione. Al momento, riferisce sempre Business Week, più di una ventina di specie animali sono state clonate, ma la possibilità di una remunerazione, di un investimento remunerativo, non ha assolutamente preso piede. Questo è un esempio di una delusione tecnologica. Vi dicevo, Business Week ne fa una selezione per una decina. Un'altra è le automobili alimentate a celle combustibili, che pure sembravano nel 1998 sempre molto vicine, e che invece Addirittura nel 1998 qui viene riportata una dichiarazione dell'allora amministratore della General Motors, riteneva che nel 2004 o anche prima potevano essere disponibili le prime auto alimentate a celle a combustibile. È successo che questo invece non si è avverato e la ricerca su questo tipo di propulsione si è assolutamente azzerata. Un'altra grande speranza delusa: internet basato sui satelliti. La velocità dei satelliti, in realtà, questo è successo al momento attuale, si è verificato che è un po' più lenta di quanto si pensava 10 anni fa, e quindi la tecnologia ha subito un rallentamento. Delle 10 speranze che sono state andate deluse, segnalate come delle delusioni tecnologiche, questa è forse quella che potrebbe ancora più mantenere una qualche percorribilità. Le altre vicende, ve le rassegno rapidamente, sono il trattamento per il cancro, la terapia genica, lo sviluppo di farmaci e la capacità di riprodurre tecnologicamente il linguaggio per permettere di interagire con i computer. In realtà, come abbiamo visto anche nelle settimane recenti, ci sono degli sviluppi interessanti sulla possibilità di interagire con i computer più che tramite il linguaggio, tramite proprio l'interazione con le aree cerebrali. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di delusioni tecnologiche, allora passiamo invece a un avvertimento di tipo tecnologico. L'ho trovato su Newsweek, ci informa della facilità con cui è possibile spiare le conversazioni dei cellulari. Da noi si sta parlando molto di intercettazioni in questi giorni. Beh, forse non è inutile sapere che è molto facile, con dei programmi che sono normalmente accessibili su internet e che costano anche abbastanza poco, riferisce Newsweek, riuscire a spiare le conversazioni dei cellulari. Come si fa? Lo spiega per sommi capi Benjamin Sutherland. Dice: ci vuole il tempo che serve per scaricare una suoneria, quindi pochi minuti, e si installano questi programmi, questi software, che costano dai $50 fino a intorno ai $300. Si stima che secondo alcuni esperti, investigatori privati che vengono sentiti proprio da Sutherland nel suo articolo, che circa il 3% dei cellulari in Francia e Germania siano sotto controllo da parte di queste intercettazioni assolutamente illegali, naturalmente, e circa il 5%, più o meno, sia la percentuale dei cellulari spiati in modo, ripetiamo, illegale in Grecia, in Italia, in Romania e in Spagna. La percentuale sembra analoga anche negli Stati Uniti, intorno al 3%. Tra l'altro, la velocità di diffusione del GSM, della tecnologia GSM, in qualche modo favorisce anche questo tipo di attività, perché è più vulnerabile, sarebbe più vulnerabile rispetto a tecnologie precedenti. Quindi si sta cercando di correre ai ripari per evitare che sia così facile essere ascoltati da orecchi indiscreti mentre si parla al cellulare. Restiamo in qualche modo in area tecnologica, ma cambiamo decisamente il taglio. Su Donna Moderna c'è un bell'articolo questa settimana che ha questo titolo interessante: le donne vengono da Facebook, gli uomini da YouTube. Naturalmente ricorderete il volume da cui è stato coniato poi questo titolo, Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, un libro dello psicologo americano John Gray, ha venduto 10 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 lingue. Perché questo strano titolo nel servizio di Flora Casalinuovo su Donna Moderna? Perché sono andati a verificare in Inghilterra, devo dire, e poi con altri studi più italiani, come ci può essere una differenza di genere nell'avvicinarsi all'utilizzo di internet. E beh, pare, scrive appunto Flora Casalinuovo, che i due sessi distino anni luce. Gli uomini hanno un rapporto mordi e fuggi con internet, si collegano più volte al giorno per connessioni più brevi e vanno a caccia, vabbè, qui si riferisce ovviamente dei gol della squadra del cuore, le ultime notizie, le quotazioni di borsa, il prezzo di un'auto o di un ristorante. E poi ci sono i siti dei giochi online, il poker, il basket, eccetera. Insomma, un uso viene definito appunto in questo articolo toccata e fuga, mentre per le donne invece c'è un uso più da social network, verrebbe da dire, cioè ci sono le navigatrici che ormai padroneggiano siti e login, non si fermano davanti a nulla. E spesso, soprattutto per le signore, il tempo libero e il tempo online coincidono. Così, quando sono connesse, passano dal pagamento delle bollette alla spesa, dalle mail agli insegnanti dei figli, al grande mare dei social network. È interessante notare, viene riferito qui da Flora Casalinuovo, che le donne sono oramai, o sarebbero perlomeno in Inghilterra, già la maggioranza degli utenti della rete. 56% degli utenti di internet sono donne, e quindi gli uomini sono in questo momento in minoranza al 44%. Tra l'altro si informa che proprio alle donne si dovrebbe un aumento significativo degli acquisti online. Prima le donne guardavano con diffidenza gli acquisti in rete, spiega Diego Piacentini nell'articolo su Donna Moderna, Piacentini è il numero 2 di Amazon. Ora ci hanno preso gusto e nel 2009 si è raggiunta una sorta di parità. Oggi i nostri clienti, appunto quelli di Amazon, sono divisi equamente tra maschi e femmine, le donne comprano di tutto. Abbigliamento, accessori, vanno fortissimo le scarpe su internet, gioielli, libri, telefonini, personal computer per sé e per i propri cari. Forse per questo motivo la crisi della pubblicità, di cui parla invece da tutt'altra angolazione, da cui parla Le Nouvel Observateur, il settimanale francese, non sembra investire internet, perché infatti si spiega che la pubblicità su internet continua a crescere, si sta aumentando lo sviluppo di internet e addirittura a questo punto gli investitori si chiedono se la pubblicità di tipo tradizionale, cioè su altri mezzi, la carta ad esempio, sia ancora efficace. Beh, anche per difendere questa rubrica dobbiamo dire che sicuramente lo è e lo sarà a lungo, però è un dato di fatto che, come si avvisa qui per il mercato francese, mentre tutti gli altri mezzi hanno avuto problemi di raccolta pubblicitaria, internet ha continuato a crescere e conta di riuscire a crescere in Francia, ripetiamo, anche il prossimo anno. Vediamo qualcos'altro che pare avere una buona tendenza, una tendenza positiva, il fatto di andare al cinema in Europa. Lo prendiamo sempre da Nouvel Observateur ancora, perché il cinema in Europa nel 2008 ha avuto un buon numero di biglietti staccati, 920 milioni in tutta l'Unione Europea, in Francia 189 milioni di biglietti staccati e nel Regno Unito 164 milioni, poi la Germania 129 milioni, infine l'Italia con 111 milioni, al fondo di questa piccola classifica la Spagna 107 milioni. Un dato interessante che viene sempre riferito da Nouvel Observateur è che aumenta il consumo di film nazionali, quindi francesi in Francia ma anche italiani in Italia e così via, quindi il cinema sembra effettivamente un ambito in cui si sente meno la crisi. E visto che parliamo di e-commerce, ne approfitto per confermarvi quella buona previsione di Nouvel Observateur con invece una testata italiana. L'impresa è in edicola in questi giorni insieme al Sole 24 Ore. In una delle rubriche dell'impresa, nelle pagine cosiddette in primo piano, si informa appunto che nel 2009 si stima una crescita del commercio elettronico. Sarà l'effetto delle consumatrici, come abbiamo visto dall'articolo di Donna Moderna, oppure qualche cos'altro, ma si pensa che se nel 2008 l'e-commerce business to consumer, cioè agli utenti finali, è cresciuto del 18%, nel 2009 dovrebbe comunque riuscire a restare stazionario, il che di questi tempi è tutt'altro che un dato da buttare. Così informa appunto l'impresa, gli utenti, i compratori almeno una volta nel 2008 sono diventati 5.300.000, crescendo di poco più di 100.000 unità rispetto allo scorso anno. Lo trovate con l'impresa in edicola con il Sole 24 Ore su questa di questa settimana. E con questo direi il tempo a nostra disposizione si è concluso. Allora io ringrazio Pietro Lacorte per l'assistenza in regia, naturalmente come sempre Vittorio Mussini e Daniele Casagrande per l'assistenza al programma. Vi do appuntamento alla prossima settimana.